English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli per la prima puntata della nuova stagione di English 24. In realtà non ci siamo mai lasciati durante tutta l'estate, ma queste puntate sono tutte nuove e dopo essere stati alla Mostra del Cinema di Venezia abbiamo qualche intervista proprio ad alcuni personaggi anglosassoni e quindi andremo a scoprire dei personaggi che hanno parlato proprio per English 24. Oggi andiamo a incontrare John Turturro. Ha fatto un documentario molto divertente, un documentario dedicato a Napoli e alla musica a Napoli. Ma qual è il suo rapporto con la musica? Sentiamo John Turturro. You can take you to a new place and can open you up and can tell you stories and that sometimes like a short story does or sometimes a whole movie can do what one song can do. The power of music everybody knows and the power of music in certain places when there's a mixture of cultures. I think, you know, there's few places in the world that are like that. That are centers, you know. In America, sometimes it's like New Orleans or New York or Havana or Rio. And Naples is certainly one of the places. The length of the amount of music that has come out of it over such a long period of time, and as it continues. Beh, sarà l'atmosfera di questa terrazza dell'Excelsior del Lido di Venezia dove abbiamo incontrato John Turturro, però lui è piuttosto calmo e devo dire un inglese piuttosto comprensibile quando ci parla, insomma, del suo amore per la musica. Anche perché lui ha un accento un po' tipico da Italian American, un po' i Sopranos parlano così se si sentono i film in originale, ed è appunto un po' come vagamente, perché poi naturalmente il suo inglese è tecnicamente perfetto, però è un po' vagamente l'accento che abbiamo anche noi italiani quando impariamo l'inglese, cioè è quello, insomma, perché probabilmente lui è ancora cresciuto con l'italiano nelle orecchie e quindi è abbastanza riconoscibile. Ed è cresciuto probabilmente anche ascoltando musica, perché lui l'ama in modo particolare. Dice non solo I love music, but I appreciate music, che è sì la traduzione letterale di apprezzare la musica, ma è proprio nel senso più profondo che forse noi abbiamo un po' perso, cioè che le do un prezzo, le do un grande valore, quindi io do valore alla musica. Ecco, la traduzione più giusta sarebbe questa, la amo e le do un grande valore. Anche perché non è solo una questione di piacere all'ascolto, lui ha quasi una percezione proprio da regista. Sì, pensa che forse ha ragione, insomma, forse non per tutta la musica, però sicuramente per quella più riuscita. Can take you to a new place, quindi la musica ti può portare in un posto. Can open you up. To open up naturalmente è un verbo che si può usare anche nel senso di open up a gift package, un pacchettino, quindi, e che poteva anche essere it can open you, però sappiamo che quando a volte ci aggiungiamo quel up non è tanto un phrasal verb che cambia significato, ma rafforza quello originale, quindi open up ti straapre, questo è l'effetto che può fare la musica. E poi she can tell you stories. Can tell you story like a short story does. Quindi un po' come la musica lui la vede appunto da un punto di vista quasi visuale, perciò così come un racconto breve può dare un quadretto, ecco, così la musica può raccontare una storia. Anzi, addirittura dice, si corregge, ma più addirittura che un racconto breve, addirittura come un all movie can do. Quindi all, nel senso scritto non A-L-L ma W-H-O-L-E, che vuol dire l'intero. No? Un intero film può fare. Everybody knows, tutti sanno questo power of music, il potere della musica, ma in particolare si riferisce ad alcuni luoghi. Ecco perché lui ha ambientato questo documentario a Napoli, perché secondo lui la musica migliore fiorisce dove c'è un mixture of cultures, quindi in quei posti dove appunto si sono susseguite o negli anni o comunque ancora adesso questi melting pot di culture. E dice non sono tanti questi posti, no? There's few places, few sappiamo che è quell'aggettivo che ovviamente non declinabile, che però che vuol dire pochi ed è usato soltanto al plurale, quindi pochi, non potremmo usarlo se fosse stato poco sale, dovremmo dire a small amount of salt, non potremmo dire few salt, ma invece places plurale, quindi few places. E poi per esempio cita, e qui è bello perché usa la parola America e non intende solo gli Stati Uniti ma evidentemente anche il sud del Centro America, perché parla di New Orleans, New York, Havana e Rio de Janeiro, naturalmente. È difficile realizzare un film del genere senza però incorrere negli stereotipi, e John Turturro lo sa bene. The idea was to kill all the clichés, you know what I mean? That was the idea, and try to, you know, bring something that would be respectful to the past, but that's alive now, because the city lives now, we're all alive now. So if I had to not do a famous old song and I do the song Vesuvio by Spartanapoli 55, that to me is important, and that was important to do, you know. And I tried to give, you know, find new versions of songs, and I've seen things in Naples that I've liked and some things that I haven't liked. So, and I listened for a long time, but, you know, when I knew I listened to Beppe Bada, I was like, well, he's really good. And I knew that when I heard him many years ago when I did Questi Fantasmi, so. Allora, lo abbiamo detto, stereotipi, cliché, e si dice anche in inglese, anche gli inglesi e gli americani hanno preso in prestito questa parola, e quindi lui lo ammette. C'era la possibilità di incorrere in stereotipi, ma lui è partito con quale idea? Proprio quindi to kill the cliché, che qui è un verbo molto forte, ma è un'espressione, cioè distruggere tutti i cliché, ucciderli letteralmente. E qui ti chiede Marta, you know what I mean, naturalmente you know what he means, e questo è in realtà... L'ha sicuramente chiesto alla Marta, però è una specie di intercalare, you know what I mean? E gli americani lo usano molto. E poi spiega che comunque lui ha voluto essere respectful to the past. Questo respectful sappiamo che è un po' questo full messo alla fine, vuol dire pieno di rispetto. Se avesse detto respectless avrebbe voluto dire che non provava alcun rispetto per il passato, invece appunto guarda al passato e lo cerca di rendere onore al passato senza fare una cosa passatista, questo è quello che intende. Anche perché lui dice the city lives now, cioè la città vive adesso, noi we are all alive now, siamo tutti vivi adesso, e addirittura va ad ascoltare le canzoni le loro nuove versioni. Sì, perché dice to me is important, e qui tra l'altro notiamo appunto questo qui, quasi è facilissimo sbagliare, quindi to live vuol dire vivere, but to be alive, essere vivo, e poi per esempio living room, che è un modo bellissimo per dire soggiorno, che è la stanza dove si vive, però il verbo è sempre quello. E poi qui c'è un altro intercalare, you know, e poi cita, forse l'avete riconosciuto, anche perché ha un discreto accento italiano quando menziona qualcosa di italiano, John Turturro, Beppe Barra, he's really good, e dice I heard him many years ago, quindi l'ho sentito tanti anni fa, when I did Questi Fantasmi, che devo dire, per essere americano, lo pronuncia quasi come se fosse italiano. Lui ha dato una definizione molto divertente del suo passione, questo documentario. Lui dice, vorrei che fosse per il pubblico come un pesce incartato nella carta di giornale, ma sentiamo perché. Well, it's just an expression, that's all. That you open something up and you discover something. Obviously, it has to be a fresh fish. They eat a lot of fish in Naples, so yeah, I thought that was appropriate. But it's a little gift. You know, we didn't have a lot of money. We didn't have a lot of time to do it, but we put a lot of time in before. And then editing it, we did it just like a regular film, and I think it's a little that the movie exists is a little miracle. How we did it, it's really, and I have to share that with really Simone Paggi, the editor, and Marco Pontecorvo, who made the movie possible with being so flexible and so fast and so, you know. Available as a cinematographer, and I was very fortunate to have him and her. Beh, partendo dal fondo, come tutti i big dello spettacolo americani e non solo dello spettacolo, ringrazia i collaboratori, per loro è sempre molto importante. Simona Paggio e Marco Pontecorvo che hanno contribuito a rendere possibile questo film, è una cosa davvero importante. E non è soltanto per quello che ci dice appunto una questione economica, ma dice made the movie possible with, e ci spiega perché, cioè con che cosa lo hanno reso possibile, with being, sappiamo che le preposizioni vogliono poi il gerundio, quindi... se vogliamo usare un verbo dobbiamo usare in questo la famosa forma ing, quindi with being so flexible and so fast and so available, quindi flessibili, veloci e poi disponibili, to be available, essere disponibili. Anche perché la verità è che we didn't have a lot of money, non c'erano molti soldi per fare questo film, però è venuto fuori just like a regular film, proprio come un film vero, no? Sì. E dice è quasi un piccolo miracolo. Just a little that the movie exists is a little miracle. E poi spiega appunto perché come un normale film. Perché we put in a lot of time. To put in time significa investire tempo in qualche cosa proprio. Anche qui l'in rafforza questa cosa del put, che ci dà comunque l'idea di mettere del tempo. Però to put in vuol dire proprio investire. E before, quindi c'è stato tanto lavoro di ricerca, che naturalmente non è gratuito se non altro perché il tempo degli attori e del regista costa. E poi dopo, editing it. Edit, sappiamo che vabbè, l'editor in chief è il direttore di un giornale, per esempio, ma to edit vuol dire montare, in questo caso naturalmente è stato il lavoro di post-produzione. Ma alla fine perché questo film deve essere come un pesce incartato nella carta di giornale? Naturalmente deve essere un fresh fish, perché si vede che a lui, e di nuovo torna quel verbo di prima, to open up, quindi when you open something up, si vede che per lui, forse un ricordo da bambino, aprire un pacchetto in cui c'è un pesce è una cosa molto eccitante. Poi naturalmente precisa che deve essere un fresh fish, perché sennò oltre al pesce dal pacchetto esce possibili fetori, quindi quelli no, non li augura nessuno. No, deve essere un pesce fresco, questa passione di John Turturro che abbiamo incontrato alla Mostra del Cinema di Venezia, che è stato con noi in questa prima puntata della nuova stagione di English 24. Intanto ringrazio Carmelo Lauricella in regia, vi ricordo che il nostro English 24 è in edicola come ogni mese da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'appuntamento al prossimo English 24.